Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che si titola proprio Economia. Economia è cooperazione, con l'accento sulla E. E ne parliamo con uno degli autori, Stefano Zamagni. Buonasera, professor Zamagni. Buonasera a tutti voi. Stefano Zamagni insegna economia politica all'Università di Bologna, ma è soprattutto un grande profeta dell'economia civile, dell'economia del bene comune, anche uno dei fondatori della scuola di economia civile. Questo libro, Economia e cooperazione, scritto, anzi messo insieme, perché sono vari articoli, vari contributi, anche con Michele Dorigatti, è dedicato soprattutto alla memoria di Pierluigi Porta ed ha un doppio valore. Il primo, appunto, di ricordare questo grande economista, di cui tra un attimo ci parlerà Zamagni. Il secondo è quello di entrare nel merito di una nuova visione dell'economia, non dell'economia tradizionale fatta sulla concorrenza stretta, fatta sul profitto, fatta solo sugli interessi, ma un'economia che abbia, come dire, come si dice, un volto umano. Ecco, Stefano Zamagni, iniziamo dal primo punto. Pierluigi Porta, ricordiamo chi era e il suo valore e la sua importanza nell'economia italiana. Pierluigi Porta ci ha lasciato nel gennaio dell'anno scorso. Era un professore di economia all'Università Bicocca di Milano, ma soprattutto era una persona con la quale si era instaurato con un altro gruppo di colleghi un rapporto molto stretto che sfociato nella creazione della SEC, cioè della Scuola di Economia Civile, di cui lui era socio, perché giuridicamente parlando la SEC è una società a responsabilità limitata, per ovvie ragioni, come si suol dire, fiscali, ma soprattutto è stato una delle menti che ha portato a termine questo progetto, che era iniziato una decina d'anni fa. In effetti la SEC esiste da 3 anni, però la gestazione è stata molto lunga. Pierluigi Porta, cioè, come ho detto, ci ha lasciato in maniera prematura, ha lasciato un vuoto molto forte, come si suol dire, perché era una persona veramente un umanista in senso proprio. Sicuramente ha dato contributi importanti alla teoria economica, alla storia del pensiero economico, ma il modo in cui lo ha fatto è sempre stato quello di non disgiungere la dimensione tecnico-scientifica del discorso economico dalla dimensione umanistica, come si pone. D'altra parte, i grandi economisti sono sempre stati così. Solo nell'ultimo quarto di secolo che si è realizzata la separazione, a causa della quale però stiamo pagando prezzi molto alti. Ecco, arriviamo quindi al secondo punto. Il merito di questo libro è di entrare appunto nel tema di una economia nuova, che un'economia appunto però che riscopre un po' il passato, riscopre anche un passato in cui gli economisti italiani hanno avuto un grande peso, anche un peso peraltro poco riconosciuto a livello del pensiero economico tradizionale, del mainstream economico. Invece questo libro riscopre appunto le origini anche dell'economia civile, dei grandi economisti italiani della scuola milanese napoletana del 7 dell'Ottocento, e dimostra l'attualità di queste tesi. Perché queste tesi sono attuali, professor Zamagni? Ecco, anzitutto una precisazione storica, come lei ha detto, e il paradigma dell'economia civile precede storicamente il paradigma dell'economia politica associato a quel grande personaggio che si chiamava Adam Smith. Adam Smith era scozzese, ma la sua opera viene pubblicata quasi 30 anni dopo la pubblicazione da parte di Antonio Genovesi di Napoli, il fondatore del paradigma dell'economia civile, e non poche sono le linee, le sovrapposizioni, potrei dire, di pensiero tra i due autori, anche perché Adam Smith aveva trascorso alcuni anni della sua vita a Parigi, dove aveva incontrato un allievo di Genovesi che si chiamava Ferdinando Galliani. Ora, da Napoli questo paradigma poi si trasferisce a Milano, dove incontra i favori di Pietro Verri, Cesare Beccaria, successivamente Gian Domenico Romagnosi, e via via in altre università italiane, tra cui ad esempio quella di Modena, dove Muratori ha giocato un ruolo molto importante. Qual è il punto fondamentale? Perché oggi c'è una ripresa di interesse verso il paradigma dell'economia civile? E il paradosso è che questa ripresa di interesse è maggiore all'estero che non in Italia. perché noi italiani siamo fatti così, come Giacomo Leopardi scrisse tanto tempo fa a proposito degli usi, dei costumi degli italiani. Cioè noi non vogliamo valorizzare le nostre radici. All'estero, soprattutto nel mondo anglosassone, avviene il contrario. E infatti la civil economy oggi è molto più diffusa in America, in Inghilterra e in generale nei paesi di lingua inglese che non in Italia. Questo è uno dei tanti. Perché? Perché ci si è resi conto che il paradigma dell'economia politica, che rappresenta il paradigma del mainstream ancora, pur avendo conosciuto diverse scuole di pensiero all'interno di quel paradigma, pensiamo ai keynesiani rispetto ai neoliberisti e così via, oggi dimostra la sua inadeguatezza nel far fronte a problemi nuovi che la globalizzazione da un lato e la quarta rivoluzione industriale dall'altro vanno determinando. Cioè, non dobbiamo dimenticare che il paradigma dell'economia politica è nato all'interno della prima rivoluzione industriale. Adam Smith pubblica nel 1776. Ora, la globalizzazione e la quarta rivoluzione stanno radicalmente, questo lo sanno tutti ormai, certo, modificando i modi di produzione e stanno ponendo problemi nuovi, oltre ovviamente a dare vantaggi nuovi su diversi fronti. Ebbene, ci si sta rendendo conto, le persone che sono libere intellettualmente e oneste intellettualmente, cioè non hanno interessi di parte da difendere, che rimanendo dentro l'economia politica questi problemi non si possono risolvere, perché se si potessero risolvere l'avrebbero già fatto. Pensiamo alla crisi, la crisi finanziaria. Nessun economista dell'economia politica l'aveva prevista, nessuno. Tant'è vero la battuta famosa della regina d'Inghilterra. Dobbiamo dimenticare queste cose. Anche economisti italiani che avevano previsto che sarebbe andato tutto a posto, dopo qualche mese scoppia una crisi. E questi economisti però non si sono battuti il petto dicendo abbiamo sbagliato, perché tutti sbagliamo, tutti, però bisogna avere il coraggio di ammettere che si è sbagliato. Ebbene, l'economia civile ha alcuni elementi nel suo DNA che invece permettono di affrontare i nuovi problemi e secondo me verosimilmente sono capaci anche di risolverli. Ecco, qui veniamo proprio al titolo del libro, l'economia è cooperazione. Perché cooperazione? Noi abbiamo una grande tradizione di cooperazione in Italia, le cooperative, dalle cooperative di consumo alle cooperative di produzione, alle banche popolari e così via. Forse in Italia c'è stata anche una pratica della cooperazione, ma questo libro vuole anche andare oltre i semplici esempi della cooperazione concreta, della cooperazione quotidiana. C'è una cooperazione più vasta, una cooperazione globale, professor Zamagni? Esatto. L'impresa cooperativa è una esemplificazione, un'incarnazione del principio cooperativo, che però è molto più ampio. Anche nel cosiddetto mondo delle imprese di tipo capitalistico, come vengono chiamate, il principio di cooperazione gioca un ruolo importante. Cooperare vuol dire operare insieme per un comune obiettivo. L'idea in base alla quale, che si era affermata fino a poco tempo fa, che fosse la concorrenza di tipo darwiniano a regolare gli affari economici e far funzionare i mercati, è una idea talmente idiotica che uno si meraviglia che persone intelligenti l'abbiano, perché non è così. Chi ha esperienza dagli studi di antropologia agli studi della psicologia neuronale, cioè, sa che l'essere umano è inerentemente un essere cooperativo, cioè che ha bisogno degli altri, perché questo è ciò che è imposto dalla divisione del lavoro. Se io mi specializzo nel produrre il pane, tu ti specializzi nel produrre vestiti, io ho bisogno di te e tu hai bisogno di me, quindi dobbiamo cooperare. Questo l'aveva capito Erasmo da Rotterdam nel 1503 nel suo libro importantissimo che si chiamava Enchiridion, quando diceva: ecco perché lo scambio è uno strumento di civilizzazione, perché con lo scambio ognuno di noi ottiene dall'altro ciò che non è in grado di produrre da solo e quindi io ho bisogno che tu esista, ho bisogno che tu rimanga ad operare, perché ho bisogno dei tuoi vestiti e tu hai bisogno del mio pane. Invece si è affermata la scuola di Chicago, di Friedman e dintorni, riallacciandosi alla linea di pensiero di Hobbes, disgraziata linea di pensiero hobbesiana, che siccome gli uomini sono inerentemente cattivi ed egoisti, certo, basterebbe leggere Manville, che gli uomini sono un male assoluto, eccetera, ognuno deve diffidare degli altri, quindi non bisogna cooperare. Perché? Perché io devo pensare che tu mi possa scusi il termine, fregare. Certo. E allora si è affermata questa idea, che è un'idea idiotica, perché è contro la realtà dei fatti, oltre che essere contro natura. Ecco allora il recuperare il principio cooperativo, che poi può trovare forma concreta in un'impresa che chiamiamo cooperativa o in un'impresa sociale, ma a tutto il mondo delle imprese, così come al mondo delle organizzazioni della società civile, che ormai si è soliti chiamare di terzo settore. Ebbene, l'operazione alla base di questo libro è quello di recuperare questa antica tradizione di pensiero e fare in modo che di fronte a problemi come l'aumento endemico delle diseguaglianze sociali, la distruzione ecologico-ambientale, la questione cioè dei cosiddetti beni comuni, il problema del rapporto tra democrazia e mercato, tutti questi problemi che angustiano le agende dei policy makers, ma anche dei cittadini, possono mettere una soluzione a condizione che noi recuperiamo questa antica idea che almeno da Aristotele in avanti è sempre stata dominante. Grazie professor Damani, purtroppo il tempo ci costringe a fermarci. Capisco. Qui il discorso potrebbe essere, anche dovrebbe essere, molto lungo, gli ambiti sono molto vasti, sono quelli dell'impresa, sono quelli della vita quotidiana, sono quelli della responsabilità delle persone. Ecco, invitiamo appunto ad approfondire questi temi, magari iniziando leggendo il libro Economia e Cooperazione, coordinato da Michele Dorigatti e Stefano Zamagni, in memoria di Pierluigi Porta, edito da Città Nuova. Sono 272 pagine per 22 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie al professor Zamagni, grazie ad Andrea Roccabella in regia e a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine per domenica prossima.